come donna, grande la donna, ma scusate, riprendo da capo, allora questo si chiama, lui c'ha un, avrà in mano, certo, lui ha una guantiera, offre del limoncello ai spettatori, e quindi c'ha la guantiera di limoncello e avrà la foto incorniciata di una bella donna, ok? Il signore solidale, poco da dire, come donna, gran bella donna, piacevole, elegante, simpatica, certo un po' troppo possessiva, ma era così innamorata di me. Diceva che se non mi avesse incontrato, chissà cosa avrebbe fatto. Si sarebbe suicidata, perché era così infelice. Infelice perché, dopo 10 anni di matrimonio, si era accorta che il marito non l'amava più. Si era stancato di lei. Non l'apprezzava e non la capiva. Per una cosa come questa, le donne fanno una tragedia, fanno la vittima, accusano la società, si disperano, comprano i barbiturici, ricorrono allo psichiatra, usano ed abusano del telefono per raccontare a tutti fino a che punto si sentono infelici. Piangono. Poi, alla fine, è logico, risolvono anche loro, magari facendosi un amante. Ma prima di arrivarci, così era successo ad Anna. Appena mi aveva conosciuto, si era sfogata con me. Mi aveva raccontato la sua tragedia. Una donna, quando si fa l'amante, lo fa prima di tutto per poter liberamente parlare male del marito. Io, calmo, cercavo di spiegarle che mi pareva anche logico che il marito, dopo 10 anni di matrimonio, non la desiderasse più con l'ardore dei primi giorni. Ma Anna non ascoltava ragioni, si sentiva tradita, delusa. Giorgio, suo marito, per lei era ormai un nemico. Ne parlava di un sadico, come di un sadico, di un criminale che aveva cercato di distruggerle la vita. Lo odiava, ma lasciarlo no, perché Giorgio era ricco. In quei 10 anni di matrimonio era riuscito ad ammucchiare una bella fortuna e lei di quella fortuna ne voleva approfittare, vendicarsi spendendo i suoi soldi e tradendolo con me. Devo ammettere che passai un periodo piuttosto piacevole. Ci vedevamo quasi ogni giorno. Lei veniva a casa mia, mi prendeva tra le braccia e non mi lasciava fino al momento in cui doveva andarsene. Mi dava fastidio vederlo sempre così scatenata, ma lei l'amore lo intendeva così, con la maiuscola. Si abbandonava a me traboccante di desiderio e di passione. E io dovevo dirle continuamente che l'amavo, anche nei momenti meno opportuni, che so, quando mi infilavo i calzini, mentre facevo la doccia, chiuso nel bagno. E io cercavo di accontentarla sempre. Perché stai guardandolo lei? Perché è vero? A parte le donne, in questo momento ha guardato lei, scusa. Cioè, che gli dicevo, ti amo, ti amo. Io cercavo, come si sa, anche se facevo del mio meglio, non sempre ci riuscivo. Ad ogni modo, i nostri incontri erano straordinariamente piacevoli. Anna era una donna deliziosa e con mio amante straordinaria. E poi mi voleva veramente bene. Diceva che per lei ero tutto, che se le fossi mancato sarebbe morta. Anch'io ero affezionato a lei. Mi sarebbe dispiaciuto moltissimo se mi fosse mancata. Ne avrei sofferto con dignità, senza farne una tragedia. Invece lei ogni giorno si attaccava di più a me. Era gelosa persino dei miei pensieri. Così un bel giorno mi disse che per avere la possibilità di vivere insieme noi due bisognava ammazzare Giorgio. Ed io dovevo collaborare con lei ed ammazzarlo il marito. Io sono un uomo tranquillo, le violenze e i fatti di sangue non mi sono mai piaciuti, ma perché avrei dovuto aiutare ad ammazzare un uomo che non conoscevo nemmeno, che non mi aveva fatto del male, anzi, che era così gentile con me da permettermi di andare a letto con sua moglie e di spendere anch'io in parte i soldi che lui guadagnava. Ma Anna non sentiva ragione. Morto. Il marito lo voleva morto. E mentre ne parlava, pregustava la gioia del funerale, con gli occhi scintillanti. tutti, si vedeva già vedova e per sempre legata a me. Io le volevo bene, ma pensare di vivere con lei per sempre. Così cercavo di dissuaderla dall'uccidere il marito, ma lei testarda non mi ascoltava nemmeno. Alla fine aveva persino trovato il modo, il solito, il più semplice e il più classico. Una bella botta in testa a Giorgio per stordirlo e quindi metterlo nudo dentro la vasca da bagno. Il gas aperto, l'acqua pure, la porta chiusa e la radio a tutto volume. Tutti avrebbero pensato, certamente pensato, ad una disgrazia, come ne capitano ogni giorno. Si sarebbe potuto scegliere un giorno qualsiasi. Quando tornava dal lavoro, Giorgio, per prima cosa, rientrando, aveva l'abitudine di farsi un bagno. E io però non me la sentivo di dare una botta in testa a Giorgio e trascinarlo in bagno senza neppure conoscerlo. Non mi sembrava corretto, non mi pareva educato. Perciò, anche per guadagnare tempo, persuasi Anna a farmelo conoscere. Giorgio mi sembrò un uomo delizioso, cordiale, simpatico, educato. Un uomo che, anche se sapeva far soldi, aveva il gusto della conversazione, delle cose belle. Sapeva parlare d'arte, di letteratura, di politica. Aveva sempre delle piccole barzellette divertenti da raccontare. Ed era anche un bell'uomo, un viso aperto, un sorriso simpatico. Non capivo proprio perché Anna dovesse odiarlo tanto e perché fosse decisa a farlo morire in un modo così umiliante, con una botta in testa e il corpo nudo immerso nella vasca da bagno. Giorgio ed io simpatizzammo, tanto che cominciammo a vederci qualche volta anche di nascosto da Anna. Ci piaceva stare insieme, scambiarci i nostri punti di vista, non è un gay questo, nemmeno l'altro, mi ero dimenticato, mi dicevo prima, nessuno dei due sono gay. E l'odio per la donna che è così bella, cioè, poi parleremo dei personaggi, scusate. Ci piaceva dire questo, scoprivamo ogni volta di avere molti gusti in comune. Capivo anche che Anna si era innamorata di me, perché in fondo io avevo lo stesso carattere e la stessa mentalità di Giorgio. Una sera che andai a teatro lo incontrai tutto emozionato con me per lo spettacolo che aveva visto. Da quella sera andammo a teatro insieme. Così, poco a poco, lui cominciò a parlarmi della sua vita e di Anna. Ne era stato molto innamorato, come anch'io lo ero, ma la vita con lei, così esigente, così possessiva, gli aveva tolto ogni libertà e lui si era sentito profondamente infelice. Così lui aveva dovuto, per difendersi, staccarsi da lei. E solo ora che all'amore appassionato si era sostituita una tranquilla indifferenza, lui cominciava a sentirsi più sereno. Io sentivo, oltre a una reciproca simpatia, una grande ammirazione per lui. In fondo, la vita che aveva vissuto con Anna sarebbe stata la vita che io avrei vissuto con lei dopo la sua morte. Un inferno. Anna, che naturalmente ignorava questi nostri incontri, pretendeva che io, che avevo conosciuto Giorgio, passassi a via di fatto e fissassi una data per ammazzarmi. Non dubitavo che si sarebbe trattato di un delitto perfetto, ma oltre che a Giorgio, io pensavo egoisticamente anche alla mia vita futura, alla mia libertà, a quelle piccole cose che danno gusto alla vita e che Anna mi avrebbe sicuramente proibito. No, non potevo uccidere Giorgio, non potevo ammazzare un amico e distruggere la mia vita, dovevo tirarmi indietro. Ma non trovai altra soluzione che quella di andare a chiedere consiglio a Giorgio, il quale fu molto comprensivo, mi fece sentire tutta la sua amicizia, tutta la sua solidarietà. Non avrei mai immaginato di sentirmelo così amico in quel momento tanto delicato. E quello che mi disse mi fece capire meglio la situazione e mi diede il coraggio di agire. Avvenne come Anna aveva previsto. Il suo piano d'azione risultò assolutamente perfetto. E tutto avvenne con tanta rapidità che Anna non fece nemmeno in tempo ad accorgersi che era lei a morire al posto di Giorgio. Ci commosse vedere il suo cadavere nella vasca da bagno. Anche morta era bellissima. Fu per tutti una disgrazia e nessuno sospettò di nulla. Giorgio ed io seguimmo il suo funerale con gli occhi pieni di lacrime. In fondo le avevamo voluto bene entrambi. Avevamo dovuto agire per legittima difesa. Ed ora il ricordo di Anna ci unisce anche di più, Giorgio ed io. Ci vediamo spesso, andiamo a teatro insieme, andiamo qualche volta a fare una nottata al mare. Giorgio ha ragione. L'amore è una gran bella cosa, ma una buona amicizia è più riposante. E non c'è nulla di più onesto al mondo della solidarietà maschile. Ora ci sentiamo liberi, padroni della nostra indipendenza. Peccato però, perché come da, non c'è niente da dire, come donna, una gran bella donna, eh? Saluta, ha fatto in tempo la fine. Salute. Allora, i personaggi ve li spiego adesso. Dunque, dobbiamo registrare anche quello? Eh? Io lo registro. Come volete. Quindi tu sei una personcina convinta, la polizia fa bellezza, la polizia è importante, tu sei una persona onesta, tu non sei una disonesta, non sei un assassino, no, una persona onesta, chiama la polizia e quando hai scoperto che si può fare, lei grazie sta e lo fa. Quindi lei parli con molta naturalezza, addirittura hai dovuto convincere i giudici che facevi questa cosa legittima, quindi sempre seri, convinta. Tu sei una persona che avevi giù, c'è un gigadello. Come spari? Stanno tutti qua, li ho utilizzati. Quindi il modo in cui tutti dovete recitare, ecco perché diceva l'autore, la presentazione diceva viverle, va bene, è serio, è legittimo. Voi non avete commesso nessuna cosa strana, no, è normale. Quindi una pensioncina tranquilla, vabbè, anzi, hai lavorato, ti sei industriato. L'uomo chiamava le donne. Se ci pensate bene anche in questo racconto, in questa storia, è da che esiste il mondo, esiste uomo e donna, che si completano, ma in realtà generalmente, per quella che è stata la storia dell'umanità, che è, no? Il fronzo, le cose, voi prendete il 95% delle riviste, sono tutte donne, no? O sbaglio? Se voi vedete le riviste che stanno per fare tutte le donne, perché chiaramente la donna, i cosmetici li devono vendere, no? Devono fare. Non vi dico cose che già sapete, no? Per cui uno se è magro, è bello, è giovane, stronzate, non mandano per cielo, ma dico come la penso io, eh? Sono tutte stronzate, merdate. Allora, quest'uomo, se poi alla fine, no? Perché una persona vale per quello che è, non certo perché è magro, grasso, alto, basso, se no io come fai a essere così bello nonostante superato gli anta. Ora, quest'uomo, quindi, è veramente incazzato nero. Cioè questo è arrabbiato perché la società è organizzata in maniera tale che la donna può usare tutti i prodotti, la donna si può vestire in certo modo, cioè la donna si può ricorrere a tutto, mentre noi uomini non lo possiamo fare. Quindi è un discorso sociale, è un discorso politico. Questo è. E quindi è come se lui avesse una guerra, una battaglia privata contro le donne. Per cui man mano che ne piglia qualcuna, ok, vince la sua battaglia. E si prende un ricordino, come i trofei di guerra. Quindi lui fa queste cose normalmente. Non è né un pazzo, né un visionario. È anche vero, lasciate stare la parte politica del mondo, adesso non mette a parte poi cose, ma stiamo facendo cultura. Lasciata la parte politica del mondo, nel senso che questa società è una società maschilista di merda, che il potere è tutto loro, eccetera, eccetera, no? Va in tutto il mondo, lasciamo te. Ma comunque è un fatto vero che la donna è un soprammo, la donna è una bambola, la donna è un fatto vero che l'uomo organizzate le cose avere il potere e poi la donna. Quindi la tua è come se fosse una battaglia, che però alla fine è una battaglia persa in termini di la donna può usare tutti una serie di mezzi e noi no. Quindi sei convinto di quello che fai. Certo, io ho detto orgasmo per dire che è una guerra per l'emozione, no? Finché la strada che non avrai niente in mano, li farai caracci, cioè tutti voi muoverete le mani molto e quindi tu carezzerai il collo di questa donna, man mano lo vedrete, fino a quando poi, no? Fino a quando respira, non fluire! E l'ha detto l'altro. Ma tutto vero, il Signore solidale. Anche questo è un discorso molto logico. Questa è una persona civile, una persona di cultura, che è entrata in un meccanismo di consueto, incontra una donna sposata che si fa l'amante perché col marito non va più d'accordo. Senza scendere nei dettagli di come nascono le coppie, come è fatto questo mondo, parliamo di quello che avviene generalmente, no? Quindi tu sei una persona razionale, sei una persona civile, che è l'ironia della sorte, che poi ammazzate lei, è una persona civile che, come sarebbe, ammazzo un uomo, io lo conosco, no? Anzi, mi fa pure del bene, che con i soldi suoi ti godi la moglie. Quindi tu sei una persona che non ha nessun momento, nemmeno mentre l'uomo del sud ha dei momenti forti, tu sei una persona tranquilla. Molto tranquilla, molto razionale, serena, esprimi dei concetti che poi sono per il 99,9% dell'umanità sono concetti veri, perché quando chiaramente non si costruisce un rapporto, ma due si innamorano, poi si disinnamorano, si folla in là, uno cade e poi si rialza, no? In inglese si folla in là, cade. Quando non si costruisce è chiaro che la cosa finisce. Invece, questo è quello che avviene normalmente, no? Allora questa donna si è fatta l'amante, tu sei un amante normale, però siccome questa donna vuole, capito, che gli devi dire che mentre sta a mettere i calzini, chiamo, tesoro, ho messo sbagliato piede, chiamo, e cioè, dico i calzini per dire sotto la doccia, no? Ora, chiaro che questi sono, chiamiamo dei paradossi, però, perché c'erano anche uomini che sono peggio delle donne, no? Diciamo. Allora questa donna è pesante e cosa? Alla fine questo dice, ma addirittura lascio quello, io me devo vivere quello che il marito. No, per piacere. Sei un uomo tranquillo, che dimostra alla gente, ed è un peccato perché, come donna, gran bella donna, eh? Ok? Come adesso se n'è andato, poi glielo spieghiamo un po' meglio. Tu sei, naturalmente, tu sei una persona solare, non sei cupo assolutamente, solare, è chiaro, tu proprio molto solare, tu sei molto incazzato e intimo, però quando dirai le cose le descrivi bene, che conosci bene questo mondo della donna, non sei gay. Togliete anche tu, non esiste proprio, cioè questo è diventato un amico vero. Infatti non a caso dice, una bella grande amicizia vale male, che è difficile trovare un'amicizia vera, no? Ok, dicevo, anche tu, niente, ho detto, sei pulita, tranquilla, non sei una donna cupa che ammazza, che fa, no, mi sembrava strano, che da tutto quel grasso, un sapore, sei una donna pulita, sei pulita dentro, sei non solo pulita fuori, cioè sei una persona pezzolcina, bella, che niente sguardi folli, niente sguardi, no. Tu sei la quintessenza dell'amore, del sesso, della gioia di vivere. Tu sei la persona che ha la gioia di vivere, di là Dio. Ti sei aggregato un vecchio tanti anni, vai ragazzi, no? Quindi tutte le volte che descrivi il portalettere, tutte le volte che scrivi questo reggimento di soldati, tutte le volte che va, proprio godi la vita, ti godi la vita molto solo. Tu sei stata molto sfortunata, tanto sfortunata. In te c'è tristezza inconsapevole, perché tu eri veramente una ragazza ingenua, e quando parlerai di tuo marito ne parli di un uomo, come si dice, di un uomo che tu lo credevi buono. Giovanni era buono, certo non mi ha dato gioia, cioè tu quasi lo scusi sempre tuo marito, capito? Non ne parli mai male. E quando era di là è morto in infarto trafficare con i suoi ragazzi, cioè mai, perché tu sei una donna, la tua vita casalinga, cioè tu denunci un mondo noioso, ma come se fosse un dovere che bisogna farlo, no? Con autenticità. E sei autentica anche quando prendi la cocaina. Tu non ti rendi conto. Tu non prendi la cocaina sapendo quello che prendi per avere gli orgasmi. No. È bello quello che mi succede. Strano, dice. Però è strano che tutte le volte che prendo la polverina, quindi c'è in ognuno di questi personaggi, in tutti e sei, c'è innocenza assoluta. Questo è sicuro. Innocenza assoluta. Nessuno di voi è colpevole di niente. La vita vi ha portato a fare delle cose che per voi non sono dei delitti. L'uomo del sud, poi lo spiegherò bene a lui, ha ammazzato quello perché nella sua logica quello è tutti gli ormoni femminili, e se è chiaro, è divertente, ironico, drammatico, ma gli ormoni femminili sono i maschi, andiamo insieme. Non può esserci un altro che magari c'ha metà e metà, e diciamo, completiamo noi. E quindi era giusto che lui ammazzava questo. Poi razionalmente arriva l'altro e ci ragiona dicendo che lui in fondo è costretto, a parte funzionare come uomo non funzionare, lì lui, la moglie è frequentata da persone maschie, no? Perché così lui salva il suo onore. Perché se lui non sta in casa, invece questi sono amici che lo vanno a trovare. Terribile, ok? Terribile. Però non fa una grinza. C'è stato allora le corna e lui ha ucciso, ha salvato l'onore. Adesso non c'ho più corna. E lui così salva il suo amore. E ci crede in quello che fa. Piange. Quindi sono personaggi tutti innocenti. Non c'è del male in voi. Assolutamente. Any question? Avremo modo, man mano che cominciamo a provare, pezzo per pezzo, è chiaro, no? Avrò modo di credere, ogni frase alla sua logica. Any question? Come dobbiamo studiare questo? A memoria, subito. A memoria, a memoria. Come la dico, vedo una gambella. Sì, no, però diciamo, per esempio, il prossimo sabato... Già cominciamo tutti. Io voglio tutto a memoria? Con tutti. Non tutti, ah, voglio okay. Cominciare con tutti. No, no, no. Però possiamo una fare una pagina. Ah, ok, ok. Questa era la domanda. Okay. Almeno una pagina, poi decidete, okay. Fate voi, insomma. Avremo anche, dico, lo potremo fare serenamente, non dovremo ammazzarci, se qualcuno viene fuori che c'ha da fare un giorno, non c'è problema, perché faremo l'ultima settimana giusto le prove per le stanze, saranno più le prove per Rosario che per voi, che dovrà uscire, dirà al Signore, inviteremo gli amici quando faremo, amici che poi vengono a pagare, per fargli fare il pubblico, no? E faremo le prove con degli amici che girano le stanze, quindi prima che lei potrà dire, signori, prendete i cellulari, eccetera, eccetera. Una frase, quella è sempre buona. Quindi, ma potremmo fare prove anche più liberi, senza giocarci tutti i weekend, senza cose. Questo è. Qualche volta magari non ci diremo, ehi, sto weekend tutti liberi, ci vediamo il mercoledì, no scusami, il giovedì, un'oretta, no? Quindi possiamo organizzarci come vogliamo. No, volevo chiederti, noi dobbiamo ripetere questa storia di 12 minuti sei volte. Perché avrai 6 pubblici. Fisicamente, allora, ma questo sarà difficile, no? Ripetere questo 6 volte una dopo l'altra non è difficile, no? Okay. L'ho fatto fare a degli argentini alla Plata. Sì. Ma fisicamente, mentalmente, non so. Viene fuori facilmente in questo senso. E che ne so? No, dico. Brava. Possono fare degli argentini, lo può fare. No, che in senso negativo, nel senso che ho detto che l'ho già fatto. Volevo. No, ma io come uguagliare parlo male degli argentini, ma come faccio? Allora, non parlo male degli argentini, ma comunque ho capito, so che sei uguagliare. La risposta è. Volevo dire, invece di dire solo sì, ti ho voluto dire che delle persone come voi che lavorano non fanno gli attori, non ce n'è un attore là, ok? Sono persone italo-argentine che non lo sapevano proprio come voi, lavorato lì sull'italiano, ok? Che l'hanno fatto 6 volte. Ok, e in più sono argentini. Senza problemi. E se l'hanno fatto gli argentini, lo potete fare. Sicuro, non c'è più. Ragazzi, lo so, forse non sei stato abituato nella tua vita ad avere orgasmi di seguito, pazienza, anche tu. Me le tirate proprio le cose. Però lui non ha battuto 5, quindi magari ne ha avuti anche 7-8 orgasmi di seguito. Va, congratulations. Stiamo scandalizzando, quelli da Parigi, poverino, la stiamo proprio scandalizzando noi. Allora, scusa, toglimi una curiosità, ma com'è, tu non torni mai più in America? Come? Dopo ottobre? Non si sa. Vabbè, se torni, il tuo posto nella compagnia... Ah, devi trovare la sposa. No? Nella compagnia teatrale, il tuo posto. No, che non hai i documenti. Io posso sposare. Devi trovare una sposa per lui. No. Se una donna ti sposavo io, sono cittadino americano, ma sei un maschietto, mi dispiace. Ho trovato la donna già per questo spettacolo, non ti posso trovare un'altra donna. Scusa. No, ma quella se, quella se n'è andata. Ragazzi, facciamo un po' di pettegolezzi adesso. E dai, facciamo un po' di pettegolezzi. Dobbiamo smettere. Se non le prove diventano le prove, qua dicono rumors, come si chiama? Pettegolezzi in inglese come? Gossip. Ok. Facciamo un po' di gossip. Quando voi. Mi ha mandato un'email Christel e mi ha detto, io me ne sono la vera ragione che mi sono andato, perché mi ha fatto la corte per 3 anni, Juan, e se io me lo baciavo in bocca con la lingua nello stomaco, lui pensava che a seconda di quanto entrava la lingua nello stomaco, pensava che io adesso gliela davo, invece io mi dispiace ma non posso. Allora ragazzi, non fate queste cose con i ragazzi, se ne vanno perché non vogliamo sapere i segreti. Lui, quando gli ho fatto sta battuta per telefono, mi ha detto, Vittorio, ma io ho già 3 fidanzate, me ne vuoi dare una quarta? Ma sei scemo! Hai ragione. E qui no, siccome si parlava di fidanzare, sposarsi, eccetera, eccetera. Non lo dobbiamo dire in giro, no, ragazzi, non lo possiamo dire in giro. Giorgi, non cominciare a pensare, non che lo metti sul playbill. Non può andare questa cosa sul playbill. Sul playbill dello spettacolo che faremo. Non possiamo mettere questa cosa perché Kristen, come cazzo si chiama lei, come si pronuncia? Cristina se n'è andata. Perché c'era una storia fra di loro. No, tu non ne sai che cosa. C'è una storia fra di loro. Mi sta tradendo. Questo è il fatto di quello. Incredibile. Tutto qua. No, è vero, continuiamo che per... Ma mica devo fare soltanto io, dirvi le storie vere che sono successe. Potete anche dirle voi. Perché Antonio, Giovanni, Giuseppe, perché è sparito? E ma com'è ragazzi? Giorgio, poi ti dico tutto. Facciamo un bollettino. Buttato fuori, un bollettino d'amore, pare. No, perché ti hanno dato una giustificazione. Chi? Ma quel che hai nominato. Giuseppe e Antonio. Giuseppe e Antonio, che ancora non ricordo. Dovete chiedere tutto a Giorgio. A me? Anche di Manfredo, regista italiano. Dovete chiedere tutto a Giorgio. Tu sei entrata troppo tardi, mannaggia, perché avevo bisogno di te da tempo su queste cose anche, perché dobbiamo fare un play, dobbiamo scrivere un play. Vorremmo sentire il tuo italiano, dici qualcosa. Mo divento più rossa di prima. Hai visto gli uruguayani che sono in gamba? No, non gli uruguayani, io. Ah, hai visto la mia assistente? Sono orgoglioso di avere la mia assistente. Vabbè, allora il papangulo ha detto lei che non c'è bisogno, lo dici tu. Perché sei a New York, Giulieri. Tu non hai la cittadinanza americana? No, è la prima volta. Eh? È la mia prima volta in America. Ah. Cioè anche tu ti puoi sposare un americano prima di essere qui? No. La prima volta in America mi ha portato a fare questo pensiero. Oh ragazzi, madonna, e quando l'atmosfera è così? Allora, prego. Al principio anche. Al principio anche. No, ma guarda che fanno controlli severi, verificano che lì non veramente non è vero. Sì. Ma c'è un cugino italo-americano che si è sposato con una italo-tedesca per farla venire su, ci hanno impegnato un legale. Beh, gli facevano domande come quando era, che tipo di identificio usa, qual è il colore delle sue mutande, quel tipo di domande fanno. Io gli avrei detto lei non, se l'avessi detto a me, dice lei non porta mutande. Però poi gli avrei detto a me, gli avrei detto ma lei non ha mai portato mutande. Però poi fanno le domande a tutti e due per vedere se rispondono alle stesse cose. E adesso ti chiudo dopo l'11. Esatto. Ah, sì. Esatto. La mia amica si è sposata con un giapponese, ma sul serio, ma 20 anni fa, le chiedevano cose come il nome della famiglia, lei, boh, l'avevo conosciuto qua, non sapeva il nome della famiglia in Giappone, non gli credeva, innamorato di lui, la suocera, boh, non so come si chiama. Ma veramente? Sì, sì. Io sono lì da cittadino nel 2006, quindi a me hanno fatto, io sono stato di una scalogna. Ma tu hai sposato un'americana? Ah, hai fatto. 5 volte. Sono cittadino. No, quante fidanzate? Come vi dico, i colloqui. No, vi dico i colloqui, Allora. Intanto se non capivi quello che chiedeva. L'avvocato. No, ma puttana, no, vi dico questo, è troppo. L'avvocato che avevo, dunque io stavo facendo il visto per, come giornalista, sono un giornalista professionista. L'America oggi mi sta facendo anche, però era lunga. E io vivevo con la madre Alessandro, con la mia ultima moglie, poi siamo sposati, ma per questioni del ragazzo social security non mi volevo sposare. Allora, l'avvocato, ok, l'avvocato italiano, parlava benissimo italiano, ogni volta faceva l'application, qualunque carta, sbagliava sempre la segretaria su, il cognome. Ogni volta il cognome, spesso il nome Vittorio. Vabbè. Allora, tutto a posto, facciamo tutto, eh? Ok. Dovevo avere la green card. Andiamo a fare il colloquio. con l'avvocato appresso, le fotografie, le cose, eccetera. Quello ha chiesto a me, per fortuna, solo la via e il numero. E gliel'ho detto, okay, come si chiamava lei, e gliel'ho detto. L'avvocato ha portato, e mi danno una cosa provvisoria. Poi employment authorization per lavorare, perché io lavoravo già, non c'avevo associazione chiusa alla Columba, pazienza. Ok, i numeri, i casini, tutto a posto. Allora questo pezzetto di carta, vado là che ho il pezzetto di carta e per fortuna dico, mi fate vedere, dico, scusate, ho sbagliato se mi cognome no, dico, mi fate vedere quella lì. E quello si gira il foglio, Capoto. Io dico, Capoto. Io faccio, ma this is, don't touch. Proprio così, don't touch. Dico, ma mai last name. E poi mi autorizzati di andare a lavorare. Go to 11th floor. E new application, paga $150. Zambio praticamente adesso paga lì, aggiustata la contorna, dico, voglio aggiungere 3 ore di fila, finalmente, mi fanno la fotografia, cioè. Poi, dove arriva la green card? Mi arriva una green card che diceva, vale 2 anni. Non sarebbe stato più facile cambiare il tuo cognome. Bene. C'è il passaporto italiano, è un po' incasinato, no? Che ho conservato la doppia cittadina. Allora, quella prende la cosa, mi dice. Mi dice, per 2 anni, come professore. E poi io devo uscire dall'Italia, andavo a lavorare in Italia. Facciamo tutto, non si preoccupa. Faccio breve. Io e l'avvocato andiamo. Avvocato, vieni con me. Ma se vieni con me, io là sbaglio di nomi, cognomi, se stai tu con me, possiamo fare tutto, andiamo là, la fila, allora, tranquillo, avvocato, con me, ho comprato le manette, uno te la mette a te come nei film, una a me, andiamo sopra, facciamo tutto, la fila, 3 ore, arriviamo lì, alla window, come dicono là, numero 2, quello, intanto che facevo il giro, per fortuna, in causa buona, ho conosciuto una russa comunque, vabbè, allora. Allora che faccio? Una truccia la porta, mi stavano arrestando quel giorno, perché arriviamo alla window, e quello fa, dice, guarda, la tua pratica non c'è, come non c'è? Guarda l'avvocato, dice, ma io guardi, questa l'ha ricevuto, ho fatto ricevuto di ritorno, come dice, ma la pratica non c'è, io devo andare in Italia, io fra 15 giorni vado in Italia, e se non c'era quello, mi pare di un anno per entrare, e non posso, cioè avevo uno spettacolo in Italia. Mi sono messo, ma io ti ammazzo, ma mamma, mi sono messo a gridare proprio come un padre. Arriva la polizia, arriva quella, va a venire, ma io ti uccido, capito? Ma fammi, ma sono capito, stia calmo, ma io sono calmissimo, devo andare in Italia, ma come ti parlo? Ma che succede? Guarda, ti ha salvato, allora intanto era arrivata sta ragazza russa, è arrivata la fila dentro. Allora io dico, guarda, la fortuna tua, sai qual è? Qual è? Che oggi l'unica cosa buona che c'è stata è che ho conosciuto sta splendida fanciulla, perché se no ti avrei già ucciso. Poi comunque siamo usciti, non posso far dare il telefono, eccetera. Secondo colloquio, green card, fatta a bordo, quella provvisoria. L'avvocato, cambio l'avvocato, prendo un'avvocatessa amica mia, la Lisa Rizzo, brava, italiana, ha fatto lo scritto degli articoli per me, il giornale. Allora, Vittorio, dico, ma com'è che non arriva la green card? Dice, sai, a Campione ogni tanto fanno, intanto io me l'ho separato da mia moglie, no? Era un matrimonio vero, non è che me l'ero sposato, poi è successo i casini, cioè ne me ne ero andato di casa. Con Cassini vuol dire la frusa? No. che succede? No, e quindi, ragazzi, quella mi dice, Vittorio, fanno a Campione ogni età, uno sul milione, cioè tu hai la possibilità, uno su milione che ti richiamano. Mi chiama Annalisa e dice, guarda, devi far di come il colore con tuo amore. Allora telefono Alessandro, mio figlio, dico, senti, se mi vuoi dare la mano, che succede? E dico, mamma, tua mamma ti uccide, vabbè, mi uccide. Fai quello che vuoi. Allora, Alessandro ha detto alla mamma, papà, mi dai la mano. E così, siamo andati là. Dico, ma questo se mi chiede, il mio inglese faceva regolarmente schifo. Ragazzi, come entro là? C'era una signora, apre il passaporto. Timona di Bari? Era nel mio paese, ma il padre era di Mola di Bari, era il figlio, lei non parlava tanto italiano, era di Mola di Bari, il padre era emigrato qui e lei faceva la cosa, io, vedi come sono rosso, diventai rosso, yes, ah, ok, allora guarda mia moglie, dice, no è, perché poi abbiamo divorziato, dice, everything ok? Lei dice, yeah, l'avvocata dice, sì, tutto ok, punto. Volevo morire, vado a fare il colloquio per la, perché il colloquio da fare da solo per la cittadinanza. E quello mi chiese, no, non è che lo dissi questa cosa, mi siede, ti fa le domande, tua figlia, altra figlia, tua madre, no, i nomi, poi non sapevo, non capivo che cos'è, non capivo il cognome della mamma, non capivo la parola, e a quello dico, what? Mi fai vedere, e mi ha scritto Maiden, non so come si chiama, Maiden. Allora io ho letto, dico, ho capito, ho detto così, mia madre, quando mi chiedeva delle cose in inglese, così, l'altro, come fa una chiedere una cosa in inglese, allora io, ok, allora questo qua mi chiede cose, allora dice, dimmi, mi ha chiesto, the flag, la parola di flag, come si chiama? Che ne so, una canzone alla bandiera. Io lo guardo e dico, oh, che cazzo gli dico perché non sapevo le parole, dico, want I sing to you, but I don't know every words, but I, I want. Quello mi guarda, dice, proprio le sperpiata, no, un po' come fa. You, why you want to be American citizen? Because I love too much this country. Good. You love this country too much? Yes. Okay. Next month, USA and Italy have a game, soccer game, è il campione del mondo. È il campione del mondo. Allora dice, c'è il game United States against, non so come si dice, Italy. Per chi fa il tifo tu? Cioè, questa è la domanda. Io lo guardo. Mortacci tu, che cazzo di domande mi fai? Alla città di Rani, un'altra domanda, incredibile. For the best. I want that the best will win. Proprio così. Mi dà la mano. E non mi senti. Oh! Ma cazzo ragazzi, se le scrivo queste cose, non credo. Quando mi racchiedo, capito? Siccome giocherà l'Italia e gli Stati Uniti, io poi facendo 1-1 con la partita, hai capito? Per chi fa il tipo tu? Già che... Facciamo 1-1 allora. Sì, mi hanno fatto perdere una scommessa, ho perso 200 euro. Ah sì? Sì, perché ho scommesso che avrebbero vinto nel tempo. L'Italia? Infatti no. Che cosa? Perché? Perché non ne parliamo. Quindi io sono stato due volte a fare i colloqui. Quindi se ti dobbiamo trovare una te un colloquio adesso. E mo ci mobilitiamo. Perché tu come attore sei importante. Bene, abbiamo raccontato un po' di cose. No, però c'è un tipo di visto per cui no, che posso, io posso fare la domanda da solo. E mi sembra che ci vuole la raccomandazione di qualcuno tipo professore d'università per dire che io ho qualche talento che non esiste. Stai allenamento oppure? No, se è vero. Credo di sì, però mi devo ancora informare però. Fammi sapere se posso aiutarti, c'è cioè, davvero. Adesso c'è uno. G1 che cos'è? Exchange Visitor. Quindi vuol dire che loro ti daranno l'opportunità di vivere qua se tu hai certa cosa speciale che nel paese si considera che non si trova, no? Diciamo, sì, no? C'è un talento che no, io ho sentito parlare di... No, ho sentito parlare di... Cosa devi dire? Che sei intelligente, perché nessun americano è intelligente, dunque... è tutto a posto? No, mi devo ancora informare. Possiamo aiutare, non lo so. Dipende da talento. No, entrambi. Devi imparare un mestiere. Come si fa il sapone? Però qui a parte loro due gli altri siamo tutti. Dico, a parte loro due tutti siamo in regola qua, no? Sì. Io sono in regola adesso. Io sto parlando per il futuro, non fare lo spiritoso. Anche lei, in regola, per 90 giorni. Per 3 mesi, no? Quello che avete visto. A volte si chiede, lo danno anche per 6 mesi. Poi quando sei qua, rinnovabili. Hanno detto. No, ma sì, lo so che sono più seri, però a me... Sulla severità, a me è capitato, sono fatti dover andare 2 volte, ragazzi, ma vi rendete conto? Fantastico che mia moglie diceva non voglio venire. E che ne sapevo che trovavo quella di originale di Mola di Bari? Meno male, meno male, meno male. Meno male, incredibile. Ma tu vuoi rimanere in questa terra? La prima domanda è importante. Perché noi abbiamo detto queste cose. La domanda è specifica, al di là della compagnia teatrale, sono scelte di vita, ma tu vuoi rimanere in questa terra? Per alcuni anni di più, sì, c'è la possibilità. Per? Alcuni anni di più. Come alcuni anni? Per non per sempre? No. Per un certo periodo? Per alcuni anni. Quindi non vorresti la cittadinanza? Ma tu che rispondevi già non a posto suo, siete fidanzati? No, è una cugina. Ho capito che hai detto cugina, ho capito, ma tanti cugini che si sposano, si fidanzano, poi cugini di terzo grado, quinto grado, no? E sei cugini, lì che sono tutti cugini, di fratelli e sorelle. Ma a palindare, chi vedi appunto, tu ma si stessa. Siamo Giulia, ancora in Italia, così fai in questo paese. E Giulia? Come lei, mentre quando, non so scherzo, ha fatto la domanda, se tu vuoi rimanere qua, corso, lei faceva no con la testa, quindi avete parlato di questo. Ieri. Ieri non è male. Va bene ragazzi, allora, tu c'hai i copioni, io c'ho i copioni, ognuno ha i copioni. Ultime domande? La prossima prova? Sabato? Alle 2? Alle 2 penso. Alle 2 però. Ok? Ok, mi la vedo. Thank you.